Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Che siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! In questo episodio, Janet. Ciao a tutti, io mi chiamo Janet Gomez. Io lavoro come pasticcere e cake designer. Io mi occupo della realizzazione di dolci e torte personalizzate con sculture di personaggi famosi o anche del festeggiato. Così riesco a creare, diciamo che una festa di sapore e colore per rallegrare ai miei clienti. La prima cosa che io vedo quando esco da casa sono le montagne, i miei gatti, i cani e le piante. Mi alzo presto per portare le mie figlie a scuola, lavoro e faccio dei servizi. Vado in palestra e poi a casa. Bueno, realmente sono sempre impegnata, sia con la mia famiglia, con gli amici. Io dipingo, faccio sculture anche se non sono in zucchero. Realmente non mi fermo mai. Certo, sono molto fiera della mia età. Ho 48 anni. Io vivo in una villa in collina. Io sono nata a Caracas, Venezuela. Leo, leo, le, leo, sono venezuelani di origine spagnola. Io dico subito, molto fiera che sono venezuelana. Parlo lo spagnolo, l'italiano e un po' di inglese. Vi dico la verità, io mi trovo bene qui a Salerno. Mi piace molto questa città, per il fatto che è una città di mare e montagna e mi piace come la gente allegra. We are the champion, my friend. È fortissima questa canzone, mi piace tantissimo. Mi dà una carica incredibile. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. Ricordo sarebbe i baci e abbracci dei miei genitori, poi la nascita delle mie figlie e come terzo ricordo il mio paese. Wow, io le direi che noi esseri umani siamo mente e cuore. E che abbiamo un grandissimo potenziale per realizzare tutto ciò che vogliamo, che abbiamo dei sentimenti meravigliosi che possiamo vivere in armonia, facendo del bene, rispettando a tutti e tutto ciò che ci circonda. Però così come può fare il bene, può fare tanto male, al punto di autodistruggersi per avere il potere di tutti. E definitivamente direi che siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani. La burocrazia, questo mi fa impazzire veramente. La burocrazia. Lo punterei sulle piante nucleari e le fabbriche di armi, senza dubbi. Io penso che siamo cittadini del mondo. Vengo dal Venezuela, che è stato un paese che ha accolto tante persone di tutto il mondo, che hanno voluto vivere lì senza fare distinzione, perciò la penso così e questo pensiero lo trasmetto anche alle mie figlie. Tutti, nessuno in particolare, tutti i colori sono bellissimi, sono tutti meravigliosi e così come sono. Wow. In questo momento viviamo tempi difficili, però io direi che noi con il nostro atteggiamento possiamo cambiare il mondo. Dobbiamo essere persone per bene, lavorare, rispettare la vita. Questo è il modo in cui noi possiamo andare avanti e cambiare questa oscurità per illuminazione. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Scalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahbub. Per ascoltare e condividere i nostri podcast, vai sulla pagina Facebook di Radio Antenna Migrante o su www.stranierincampania.it. RAM, Radio Antenna Migrante.